Domenica, prima settimana, lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo, il Signore risorto promulga per i secoli l'editto della pace. Pace fra cielo e terra, pace fra tutti i popoli, pace nei nostri cuori. L'alleluia pasquale risuoni nella Chiesa pellegrina nel mondo e si unisca alla lode armoniosa e perenne dell'Assemblea dei Santi. A te la gloria, o Cristo, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen. Prima antifona. Dall'aurora io ti cerco, o Dio, che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio. All'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia. A te anela la mia carne. Come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'autoconvito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo. Penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia. La forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Dall'aurora io ti cerco, o Dio, che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia. Seconda antifona. Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: benedetto Dio. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore, il Signore. Benedite, cieli, il Signore. Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite, sole e luna, il Signore. Benedite, stelle del cielo, il Signore. Benedite, piogge e rugiade, il Signore. Benedite, o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: benedetto Dio, alleluia. Terza antifona. I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore. Esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. I figli della Chiesa esultino nel loro Re. Alleluia. Lettura breve. La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Responsorio breve. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Antifona al Benedictus, 27ª domenica del tempo ordinario. L'uomo si unirà a sua moglie e i due formeranno una sola carne. Questo mistero è grande in Cristo e nella Chiesa. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto da Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Invocazioni. Acclamiamo Cristo, sole di giustizia, apparso all'orizzonte dell'umanità. Signore, Tu sei la vita e la salvezza nostra. Signore, Tu sei la vita e la salvezza nostra. Creatore degli astri, noi Ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della Tua gloriosa risurrezione. Signore, Tu sei la vita e la salvezza nostra. Il Tuo Spirito ci insegni a compiere la Tua volontà e la Tua sapienza ci guidi oggi e sempre. Signore, Tu sei la vita e la nostra salvezza. Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del Tuo popolo, intorno alla mensa della Tua parola e del Tuo corpo. Signore, Tu sei la vita e la salvezza nostra. La Tua Chiesa Ti renda grazie, Signore, per i Tuoi innumerevoli benefici. Signore, Tu sei la vita e la salvezza nostra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Orazione. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del Tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la Tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme